com'esser depossente la tua virtù, se non bevuta ancora di tanta gioia, già mi colmi il petto. Ma perché mai l'effetto non ne possi io vedere, prima che un giorno interno non sia trascorso? Beva sì. O buono o caro, un altro sorso. O qual di vena in vena, dolce calor mi scorre. Ma forse anch'essa, forse la fiamma istessa, incomincia a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito. E in me si risvegliò tutto in tratto. La la la la la la la la la.